E sono quasi le 21.10 qui da Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza. Inizia il lieve ritardo. Prova tecnica di trasmissione che andrà avanti sino alle 23.30 e probabilmente qualche minuto in più. E comunque 25 o'clock dovrebbe andare in onda intorno alle 23. Cominciamo a salutare Anna qui a Roma, Dez De Carlo from Boston, Gianluca Becuzzi e Maria D'Agostini qui a Roma, il medico della peste. Cecilia Miradoli del progetto Pindar. Maglia in Sardegna, Like a Wake, Doriana in quel di Taranto, al pari di Giovanni Lisi di Cordis Cinti Serpente. Tablo Rasa, Cortina d'Ampezzo, Alberto Clipper, Cornelio Basilisco, Valerio Michetti. Quest'ultimo anche della Grazia Obliqua e anche Humanima che ci ascolteremo questa sera. In Olanda ci sta ascoltando Moschita de Miramar, Ant Christ da Firenze. Salutiamo Nicola Locci di Stigmate Hexagonal, anche lui in Sardegna. Jean-Claude Berthaud invece in Val d'Aosta. Cominciamo, anzi prima di cominciare andiamo a ricordare ovviamente la nostra campagna di autofinanziamento, il nostro radioabbonamento, 30 euro per 1000 ascoltatori, attuato tramite crowdfunding, e c'è una piattaforma che si può rintracciare sul nostro sito in un banner specifico e lì si scelgono le modalità più adatte. Cominciamo con un vecchio progetto romano del quale si sono perse più o meno le tracce, ma recentemente sono riuscito a reperire questi vecchi documenti, chiamiamoli vecchi tra virgolette, risalenti all'inizio degli anni 90. Sto parlando di Noosfera di Cesare Marilungo, che ha diviso in maniera equanime la sua carriera, la prima fase più ambient oscuro, la seconda più nettamente neofolk. Abbiamo qui queste incisioni, dette Early Works, lavori diciamo iniziali, e ci ascoltiamo Bits of Memories e September. Ovviamente viaggi introspettivi siderali, come ci dice il buon Antichrist che vado a risalutare. Contorni quasi onirici per Noosfera di Cesare Marilungo, interrotto qua e là da vibrazioni da un tempo. Questa è la primordiale attività di questo musicista romano, che poi si trasformerà in ballate acustiche sullo stile Sol Invictus Death in June, più in là nel tempo. Per chi volesse reperire in free download il materiale, basta cliccare su Internet Archive il nome Cesare Marilungo Noosfera e compare tutta l'attività di Noosfera. Vado ad abbracciare anche Flavio Derbecante, Arianna Degni Lombardo di Noise Cluster. Adesso la nostra cappatina, il nostro viaggio nella sperimentazione giapponese. Sfruttando ovviamente a tal riguardo Anthology of Experimental Music from Japan. E questa sera tre momenti variegati tra loro, momenti più rarefatti, altri più ruvidi e sperimentali. Cominciamo con Kenji Ikegami con Access. Ci sarà poi Minari Minamir Yohei con Anma e poi Masayuki Manishi con Climate. Yo. decisamente, effettivamente, come dice il buon Enrico Ponzoni di Sukunshi Butsu Project, un bello spaccato della realtà sotterranea giapponese, grazie agli studi effettuati da Raffaele Pezzella attraverso la sua etichetta, la Nesplay Sound Group. E quindi tre momenti, il primo effettivamente sciamanico e mantrico, i due episodi successivi invece più visionari, più deliranti e frementi. Mi sento di consigliarla per chi fosse interessato e interessato alle fusioni etniche con le diverse culture che Pezzella ci ha donato in passato e che ci donerà anche in futuro. Infatti il bello anche di questa ennesima compilation, nello specifico la traccia Anma di Minamir Yohei, era proprio un classico aspetto della cultura musicale giapponese. Torniamo in Italia, Le Noie per quanto riguarda Teatro Satanico di Lunus Davis, Davis Granziera, il vero nome. Lui rappresenta uno dei punti fermi, una delle icone della scena proprio industrial, esoindustriali proprio italiane. Le Noie del 2020, Le Noie è anche una lunghissima traccia, ci ascoltiamo una decina di minuti di questo quarto movimento che va a chiudere l'intero lavoro. il panorama musicale ideato e svolto da Teatro Satanico in tanti tanti anni è sempre stato abbastanza vario, come giustamente ci dice anche il buon Gianluca Becuzzi. Questa è la produzione più recente, targata 2020, si chiama Le Noie, una suite di 36 minuti che ci siamo ascoltati in due diversi momenti. C'è tensione sotterranea, ci sono soluzioni sonore più prossime al Death Ambient da un lato e alle sonorità più riconducibili ai Coil dall'altro. Davis Granziera da Bassano del Grappa e spesso accasato con l'Old Europa Café, realtà storica dell'industrial italiana. Saluto Nicola Locci di Stigmate Hexagonal. E adesso veniamo al nostro maestro della fisarmonica che risponde al nome di Sisto Palombella. Lui viene dalle parti di Cremona, se non erro. E se si ha la curiosità di andare sul suo profilo Bandcamp, si possono trovare svariate composizioni, album, singoli. E una delle ultime si chiama Le Civette. E ho scelto una traccia abbastanza anomala per quanto riguarda Sisto Palombella. Una traccia dal profilo decisamente sperimentale, più crudo e oscuro del solito, e che ha il nome, porta il nome di La Famiglia dei Gigini.